Obrigado aí pela oportunidade de estar aqui com você, falando um pouquinho da Amazônia, um pouquinho do nosso trabalho. Grazie per essere qui a parlare un po' dell'Amazzonia e del nostro lavoro. Noi facciamo parte del progetto Saúde e Alegria, che lavora con comunità indigene nella regione del Tapajós, nell'Amazzonia brasiliana. Lavoriamo principalmente con popolazioni autoctone, che vivono nelle foreste e nelle zone rurali. Lavoriamo poco nelle aree urbane. Noi cerchiamo di portare le nostre conoscenze tecniche e unirle a quelle degli indigeni e costruire in maniera pratica soluzioni concrete ai problemi di tutti i giorni. Attraverso queste soluzioni cerchiamo di generare delle pratiche sociali che possano diventare politiche pubbliche, che il governo possa assorbire e portare in altre regioni in cui sono necessarie. Noi, per esempio, abbiamo diversi programmi nell'ambito dell'insegnamento basico, montaggio di sanitari ad un costo molto basso, costruzioni di canali per le acque, perché la mortalità dipende molto dall'assenza di questi strumenti basici e perché molti bevono l'acqua del fiume, che però oggi è contaminata e non è più la stessa acqua di una volta. Altre regioni che precisano. Per esempio, abbiamo vari programmi nell'area di... Un altro dei nostri progetti è una nave ospedale che va in queste comunità mensilmente e presta loro assistenza sanitaria. Abbiamo un altro progetto con giovani e bambini, progetti di educazione ambientale, reddito, la costituzione di gruppi di appoggio per le donne, artigianato e raccolta di ricette antiche a base di piante usate dalle comunità. La nostra associazione si è data la forma di circo itinerante e le persone che lavorano con noi sono tipo dei clown, perché è molto più figo fare un lavoro di questo tipo per sensibilizzare al trattamento dell'acqua o a come produrre il siero fatto in casa per combattere la dissenteria. Questo funziona di più con scherzi e messe in scena che con la classica lavagna, con quel caldo e in quella relazione obsoleta di chi insegna e chi apprende. Quindi è possibile farlo discutendo di cose difficili come la malattia, la vita dura, la mancanza di assistenza attraverso Saúde e Alegria, che aiuta la nostra autostima. Stima e la nostra speranza di cercare soluzioni senza aspettare che queste avvengano da sole. La nostra autostima e la nostra speranza di buscar soluções e non sperar acontecer. Volevo chiederle inoltre se ha trovato qualche tipo di appoggio dalle istituzioni, per esempio dal FUNAI, o se si è costruito un'opinione pubblica intorno a questo progetto che lei sta portando in giro. Io acho que assim, existe hoje, né, un movimento molto forte contro il lavoro das ONGs. Per quanto riguarda l'opinione pubblica, credo che oggi ci sia un lavoro molto forte di criminalizzazione delle ONG, del loro lavoro, degli ambientalisti, animalisti, attivismo in generale e tutto quello che non concorda con la forma di pensare del governo eletto, che colloca queste esperienze come comuniste e sinistroidi. Questo finisce anche per riflettere sul lavoro delle ONG e dimostra un tentativo da parte del governo di criminalizzarle. Molti dicono che siccome ricevono fondi internazionali, allora sono al servizio di governi stranieri e cercano di internazionalizzare l'Amazzonia. Ad ogni modo, generalizzare non porta mai a buoni risultati, perché in qualsiasi settore ci sono infiltrazioni maligne e gente per bene. Investigue até para separar o joio do trigo e se de fatto fizerem investigações sérias, vão ver que a grande maioria. Quindi che investighino, che facciano le loro indagini anche per dividere il male dal bene e si accorgeranno che la maggior parte delle ONG costruisce un lavoro serio e che addirittura unisce sforzi per fare ciò che il governo non sta facendo. Per cui in questo clima è giusto che noi rispondiamo con la massima trasparenza possibile. Nel nostro caso specifico, credo che non siamo mal visti, anche perché abbiamo un programma pratico di azione diretta nei luoghi dell'Amazzonia. Il nostro lavoro è riconosciuto dalle stesse popolazioni con cui lavoriamo ed è questo che ci muove a continuare. È da propria popolazione che a gente lavora, quindi è questo che ci muove a continuare.